Incontri di Gianfranco Fabi. Note, possiamo dire, immortali di Imagine. Iniziamo l'incontro di questa sera. Buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera a Franco Iseppi. Buonasera, buonasera. Franco Iseppi è presidente del Touring Club Italiano e parleremo poi della sua esperienza, di quello che sta facendo il Touring Club Italiano, ma iniziamo con Imagine, questo motivo, questa immaginazione, questa in fondo voglia di cambiare il mondo. Perché Imagine? Ma come sempre c'è anche una motivazione generazionale, cioè questo è il grande successo di Lennon, ma in realtà poi nella versione di Noah e di Keb Khaled va letta anche per il significato simbolico che ha, che è l'incontro tra una cultura ebraica e una cultura islamica, e questo non può che richiamare l'idea, insomma, che una delle cose che rimane di quest'estate, quando uno ci pensa su, non è solo l'aspetto dei grandi cambiamenti meteorologici, certo, ma è anche il fatto della quella che hanno chiamato terza guerra mondiale. Allora, con qualche ragione. Con qualche ragione. Allora il tema è il capire se i conflitti tra il mondo debbano essere risolti esclusivamente con le armi o se invece ci sono anche altri mezzi. Tra questi mezzi, oltre che il commercio, oltre che il dialogo, eccetera, c'è anche la cultura. La cultura che è forse l'elemento alla fine più solido. Certo. Ecco, immaginiamo un mondo in cui non ci siano più divisioni, ma in cui ci siano più incontri. Più incontri e più possibilità di esaltare le proprie differenze, ma anche rispettare in qualche modo le regole che sono la base di queste differenze. Ecco, regole e differenze, rispettarle e soprattutto valorizzarle, cercare di portare anche con questo che viene chiamata la contaminazione delle culture, la possibilità appunto di rendere quello che è positivo da parte di ciascuno. In questo, quello che viene ancora chiamato turismo, che poi è un modo di incontrare gli altri, di incontrare i territori, di incontrare civiltà o tradizioni diverse, ecco. Come mai si è arrivato Franco Iseppi a occuparsi di turismo? Diciamo, ci sono motivazioni serie, diciamo serie per dire di appartenenza, cioè uno che appartiene all'associazione può essere che alla fine, insomma, si impegni anche in questo modo. In questo caso forse il tema è questo, che in realtà questi fondatori, poi se voi ne parliamo, cioè avevano l'idea del turismo molto moderna, cioè allora erano dei profondi unitari e avevano pensato che sostanzialmente il turismo servisse, oltre che come bene economico, anche ad aiutare l'unità, insomma, di questo paese. Cioè, adesso, il Touring Club è nato alla fine del secolo scorso. Adesso tutto questo è diventato un'altra cosa, è diventato che oggi non è più il problema di integrare un paese, ma è quello di vedere come si può trarre frutto e positivo da una idea multiculturale dei rapporti. Quindi questo è oggi un po' il senso più profondo del turismo dal punto di vista di chi ha, certo, pensato a questa associazione. Insomma. Ecco, ma ricordiamo un attimo anche la tua esperienza passata al di là del turismo. È stato per lunghi anni alla RAI come produttore, come sceneggiatore, come autore, come animatore in fondo di una televisione fino a qualche anno fa. È un'esperienza che guardi un po' con nostalgia, con ricordi o un po' di rimpianti? No, cioè nel senso che i rimpianti fanno parte della vita, quindi quando si è stato bene e si sono fatte delle cose anche positive, insomma, uno non può ignorarle, ma in realtà forse c'è anche una spiegazione in questo caso molto pratica del perché io oggi mi occupo più di turismo, perché in realtà, se uno ci pensa bene, l'evoluzione, diciamo, di una industria culturale o di un grande mass media come la RAI, l'evoluzione di un altrettanto importante fatto di tipo di massa come il turismo, hanno delle analogie profonde. Cioè la televisione è nata come televisione di massa e progressivamente nel tempo è diventata una televisione mirata, cioè con dei canali pensati per dei tipi di pubblici, e poi adesso è diventata una televisione alla carte, cioè praticamente ognuno fa quello che vuole. Ecco, però il turismo... quando parlavo degli impianti mi riferivo forse al fatto che una certa visione di televisione come un luogo di cultura, come un luogo di incontro, forse un po' questa missione si è persa. Si è persa senz'altro, ma più che perdersi in realtà non si è avuto il coraggio di affrontare il futuro, cioè di capire come da un passato con delle funzioni e con dei riconoscimenti tali in fondo non si siano tratte le conseguenze per un'evoluzione. Adesso tutti citano Carandini quando dicono un presente senza un passato non ha un futuro, ma in realtà è nella logica delle cose che bisogna occuparsi di domani, e forse non ci si occupa molto del domani. Allora non guardiamo indietro, guardiamo in avanti, guardiamo al club italiano, guardiamo al turismo, parleremo anche di questa associazione. Ma il turismo come sta andando? Se è stato un argomento in fondo da bar o da tram, dire un'estate come non ci sono mai state in passato, solo piogge, quindi anche il turismo ne ha risentito. Ma dunque, diciamo, noi abbiamo fatto un certo tipo di lavoro, come sempre tutti gli anni, di previsione come sarebbero andate le cose, e nelle nostre previsioni c'era l'idea che comunque non sarebbe stato molto diverso dagli anni scorsi, anche se la crisi economica avrebbe inciso un po' di più e quindi avrebbe avuto le conseguenze sulle durate, sulle scelte delle mete, su queste cose qua. In realtà poi l'aspetto meteorologico, quindi il grande cambiamento meteorologico, ha influito oltre ogni tipo di previsione, per cui i primi risultati che si hanno adesso sono tutti risultati molto più critici di quelli che potevano sembrare. Allora il meteo ha influito moltissimo su tutto questo tipo di cosa, e le conseguenze sono che grosso modo non ha condizionato un po' il turismo straniero, perché comunque è un turismo più organizzato, più prevedibile, insomma, che fa programmi più a medio termine. Ha inciso molto sul turismo interno, su quello domestico, che è quello su cui poi si basa sostanzialmente la stagione. E quelli che hanno sofferto di più sono alcune offerte di tipo tradizionale, il mare, la montagna, cioè ovviamente non nello stesso modo in tutto, certo, il paese, perché in realtà le condizioni meteorologiche non sono state uguali in tutto il paese. Quindi, ecco, però sono venuti un po' al pettine anche certi problemi strutturali del turismo. Sì, però va anche detto che qualcuno ci ha tra virgolette guadagnato, nel senso che per esempio le città d'arte hanno rappresentato diciamo degli aumenti significativi, cioè i musei, non è solo, credo, dovuto alle iniziative di Franceschini sulla gratuità della domenica, sull'allungamento del periodo di apertura, ma penso che le stesse condizioni abbiano inciso, con dei dati che sono anche, diciamo, assolutamente imprevedibili. Poi se vuoi te ne dico qualcuno possiamo anche vederli, probabilmente appunto c'è stato un certo effetto meteorologico. Se piove a Rimini qualcuno va a Venezia, cioè. E poi molti hanno sofferto i tipi di turismi cosiddetti, per esempio on air, cioè quei villaggi piuttosto che non i campeggi, hanno un po' sofferto gli agriturismi, specialmente quelli del nord o del centro, no, certamente non del sud. Diciamo che in pratica non è vero che non è successo niente, sono successe anche delle proposte folli. Anche cose che possono essere di insegnamento per guardare in avanti, anche per cambiare una certa politica turistica. Incontri. Ancora con le note di Imagine, per quella da Noir e Kepler-Led, riprendiamo il nostro incontro con Franco Iseppi, presidente del Touring Club Italiano. Abbiamo parlato nella prima parte, concludendo un po' sull'andamento altalenante, diciamo più negativo che positivo, ma anche con qualche dato positivo della stagione turistica che si è appena conclusa, una certa riscoperta anche delle città d'arte. Tra l'altro qui forse si intreccia anche un po' il ruolo del Touring Club Italiano, la sensibilizzazione verso le tante bellezze italiane, non solo Firenze, Roma e Venezia, ma anche tante piccole realtà che possono essere dei motivi di attrazione. L'Italia è forse un po' troppo piena di tesori d'arte, e quindi in questo ha molte cose da valorizzare, Franco Iseppi. Penso proprio di sì, in questo senso, non tanto per percorrere una nostra storia, perché in realtà insomma c'è stata una generazione che si è formata sulle carte e sulle guide del touring. Qualcuno ha detto che Paolucci ha detto che le guide rosse con l'Enciclopedia Italiana sono state le grandi avventure, diciamo, editoriali del Novecento. Quindi quella lì è un terreno sul quale, diciamo, questa associazione si è molto, diciamo, impegnata, ma non solo su questo, perché forse tu ricordi la guida enogastronomica del 31, certo. Cioè che è ritenuto un riferimento attuale. Cioè, che avete ristampato adesso. Che li hanno ristampati. Cioè, allora, dietro questa idea dei 120 anni, c'è anche il fatto che questi fondatori erano decisamente geniali, nel senso che avevano anticipato l'idea del turismo, in questo senso che non sono più solo i beni culturali intesi in senso tradizionale il punto di riferimento principale. Oggi l'attrattività di questo paese è la sua grande eredità complessiva, dove non solo sono i beni, ma sono anche i prodotti del rapporto tra l'uomo, l'ambiente, la natura, la storia, il paesaggio, per cui si considerano beni culturali anche i beni gastronomici, piuttosto che il paesaggio, grazie a Dio, piuttosto che le tradizioni, l'artigianato, eccetera. Quindi questi qui 120 anni fa avevano già pensato a quello che poi è... Anche perché il Touring Club è nato come associazione ciclistica e quindi non poteva andare molto lontano. Non poteva andare lontano, difatti in pratica è nato da 57... diciamo ciclisti che sono usciti da allora dall'Unione dei Velocipedisti Italiani, hanno fondato questo TCCI, Touring Club Cicloturistico Italiano. E erano 57, gente che credeva che questo fosse il mezzo più importante per la propria libertà individuale, cioè dove tu puoi scegliere dove fermarti, dove andare, cambiare le soste, cioè davano un significato molto profondo dal punto di vista simbolico. Cioè la bici era senz'altro il segno della modernità, certo, ma di fatto era un segno anche di uno stile di vita, e questo è quello che è rimasto oggi. Non ecco, ma abbiamo promesso di guardare in avanti, di guardare il futuro. Ecco, il futuro. Magari è anche un ritorno alla bicicletta, perché la bicicletta sta tornando ad essere un modo anche di fare turismo, certamente ancora minoritario, però è uno dei tanti modi appunto di fare turismo. Che cosa avete nel carniere per i prossimi mesi, i prossimi anni, come presidente del Touring Club Italiano, Franco Iseppi? Ma diciamo un po' questo, che a parte il fatto che coloro che puntavano sulla bicicletta vedevano lontano, perché tu sai che l'anno scorso si sono vendute più biciclette che automobili in questo paese, non è che questo sia un elemento di chissà quale tipo di, diciamo, di rivoluzione. È innegabile, però, che è significativo di uno stile di affrontare anche di una certa crisi economica. Non c'è dubbio. Allora, su cosa vuol puntare un po' le sue carte del futuro? Sono quelle di recuperare in qualche modo quello che è stata la storia, cioè la storia del touring, che tutti conoscono prevalentemente, giustamente, come guide, come carte, certo, come pubblicistica. È stata però anche una storia di un'associazione che ha svolto un grosso lavoro di servitore civile, ed è forse questo il motivo per cui la gente pensa che sia un'istituzione. In realtà è una società privata, senza fini di lucro, nemmeno riconosciuta. Che si basa sulle quote dei soci, cioè, e sul business editoriale. Anzi, addirittura nei periodi di crisi sono state le quote dei soci a salvare il business. Quindi non... Allora, su cosa punta? Su questo tipo di prospettiva, cioè Tu sai che le guide rosse le hanno controllate 2.800 volontari, che le carte le hanno controllate 17.000 volontari. Quindi nell'associazione c'è un senso del volontariato e dell'appartenenza. Fortissimo. Anche il presidente si sente un volontario. È un volontario. Allora, diciamo che un filone grosso del nostro lavoro futuro sarà quello di lavorare, diciamo così, attorno diciamo, al patrimonio culturale. Non solo tenendo aperto quello che non si tiene aperto, che è una delle caratteristiche del volontariato culturale del Turi, ma occuparsi proprio di quello che è nascosto. Il prossimo dono ai soci sarà un libro sull'Italia negata, cioè su quel tipo di Italia culturale o coi beni culturali che si conoscono meno o che non sono accessibili. Quindi questo filone continua. L'altro è quello di lavoro, è quello di continuare a fare un po', diciamo, i certificatori della qualità complessiva dei piccoli comuni dell'entroterra, ormai una rete di 200 comuni, 202. Le bandiere azzurre, bandiere arancioni, cioè. Sì. E questo è un lavoro anche questo, e poi vabbè, se continui a fare le penisole del tesoro, queste cose, ma soprattutto quello che adesso sta pensando è quello di riconvertire completamente i suoi prodotti, i suoi servizi, cioè in pratica la vera scommessa dell'associazione è la sua riconversione tecnologica. E allora l'ambizione che ha, e tra poco si vedrà qualche risultato, è di diventare la più grande comunità di viaggiatori che ci sono. Viaggiatori con certe caratteristiche. La nostra associazione è legata a National Geographic nel fare, nel comporre la rivista, e di chi si occupa? Si occupa dei viaggiatori che si prendono cura del mondo, e quindi dietro c'è questa grande molto ambizioso. E quindi vuol far questo, vuole anche cambiare il rapporto con i soci, ma soprattutto vuole esaltare l'idea che la vera attrattività di questo paese sono le sue differenze. Per cui il lavoro più grosso sarà quello di articolare l'associazione in club territoriali, quindi superare un po' la Milano-centricità che è nella sua storia, per in realtà mettere a punto un progetto di articolazione vera, perché questo paese ha in questo la sua attrattività vera. Non è vero che non ha un'unità, ha sì. Un'unità plurale. Con questo basandosi sempre sul volontariato. Basandosi molto sul volontariato, se non esclusivamente sul volontariato. Perché questa è un po' la sua storia, insomma, cioè, non rinunciando anche ovviamente ad avere delle possibilità di entrate con delle iniziative che abbiano anche dei riscontri, perché diversamente poi certo. Ma non è questa la sua finalità. Cioè il denaro è uno strumento, insomma, che bisogna utilizzare quando è necessario, ma senza. E poi c'ha certe ambizioni, quella di occuparsi di questo paese. Come sono i rapporti con il Ministero del Turismo? Ma diciamo che cioè, questa idea di aggregare turismo a beni culturali è un'idea buona, cioè, nel senso che se non altro non. E il turismo non è più un dipartimento che certo. Vaga nel mondo. Mi sembra che questo ministero ci abbia due o tre idee molto forti che noi condividiamo. Primo, che il turismo non svolge una funzione ancillare rispetto ai beni culturali. Il turismo è una realtà in sé, anche perché, mentre voglio dire, i beni culturali sono un bene, il turismo è un prodotto di sistema. Il turismo c'è quando funziona bene la politica dei beni culturali, i trasporti, dell'educazione, eccetera. Quindi sono due cose separate, ma con una grande funzione, perché è innegabile che il turismo si muova, e quando si muove, diciamo, diventa un moltiplicatore degli interessi culturali, e le motivazioni delle scelte del turista in genere sono varie, ma hanno sempre anche un fondo di tipo qualche culturale e di tipo esperienziale. Quindi già questo è una coincidenza. L'altra cosa è che c'è un'idea di turismo che noi condividiamo molto, cioè l'idea, insomma, che il turismo sia una serie di cose messe assieme e non abbia più quelle centralità che aveva in passato. Anche questo mi sembra. Un'altra cosa che condividiamo è l'idea che a un certo punto, se cultura e in qualche modo economia non si mettono assieme, e quindi se in realtà non cominciamo a affrontare le cose anche nei suoi estremi di tipo manageriale, di tipo produttivo, noi non usciamo. Ecco, in questo l'Italia ha qualche ritardo rispetto agli altri paesi a livello di strutture di trasporto, di strutture anche di ricettività, di modernità della ricettività, capacità di dare accoglienza a un turismo di massa, cosa che invece la Spagna o la Grecia riescono a fare. Come mai ci sono questi ritardi italiani? Ma credo che diciamo diventa semplice fare un po' insieme un genere elenco dei ritardi. In realtà certo. È che il turismo non è mai stato concepito come un vero asset economico di sviluppo di questo paese, malgrado le sue potenzialità. Cioè sembrava che si potesse crescere senza bisogno di interventi, sì, che fosse naturale. Cioè, fosse naturale, cioè, perché in realtà è quando uno è talmente ricco spesso sa di non essere. E allora, partendo da questo, viene fuori che in realtà, non essendo mai stato centrale nelle politiche, poi alla fine viene fuori che quali sono le magagne. Le magagne sono che spesso metà di questo paese non è accessibile, quindi inutile che non pensiamo. Ecco, per concludere, Franco Iseti, presidente del Touring Club, un sogno che è nel cassetto nella sua presidenza per questa associazione che appunto festeggia i 120 anni? Il sogno è quello di sostanzialmente essere utile a quello che è, diciamo, il fatto più emergente rispetto al punto del turismo, cioè quello che, siccome saranno gli stranieri a salvare questo turismo, quello che a questo punto l'associazione non sarà più solo quella che ha come obiettivo quello di far conoscere l'Italia agli italiani, ma di far conoscere l'Italia al mondo. Un programma e quindi è molto ambizioso. Ambizioso, ma direi necessario. Però assolutamente necessario. Grazie mille, grazie a Franco Iseti di essere stato con noi questa sera, presidente del Touring Club italiano. Ringrazio quanti ci hanno ascoltato, ringrazio Paolo Corleoni in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie ancora, buona domenica.